Italia in controluce. Italia in controluce, il viaggio quotidiano tra le storie italiane di cronaca, un racconto radiofonico che utilizza la tecnica della narrazione. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Di Italia si parla alla Mostra del Cinema di Venezia. Il titolo del film è un verso di una poesia di Tito Balestra. Se hai una montagna di neve, tienila all'ombra. La montagna di neve, fragile, preziosa, è la cultura. E il film, nella sezione Controcampo italiano, è proprio un viaggio alla scoperta di che cos'è oggi la cultura in Italia. Marta Cagnola. È un viaggio nel nostro paese da nord a sud, cercando intervista dopo intervista di capire una cosa complessissima e fondamentale. Cos'è la cultura? La regista di Se hai una montagna di neve tienila all'ombra, Elisabetta Sgarbi. Io amo molto il cinema e sapevo che per trattare il tema della cultura sarebbe stato anche un viaggio, e quindi sarebbe stato un viaggio anche di visioni, come io credo sia questo film. Abbiamo detto, dobbiamo essere onesti, non dobbiamo decidere di dover dimostrare una certa cosa, andiamo, percorriamo la lunga penisola, avviciniamo le persone che incontriamo, e fisicamente in una giornata se ne potevano incontrare tante, il viaggio è durato un mese, quindi tra gli spostamenti, i luoghi eccetera ci avviciniamo e raccogliamo delle risposte, oltre al fatto che essendo editori avevamo anche la possibilità di raggiungere scrittori, filosofi, poeti che ci potessero dire che cos'è per loro la cultura e lo stato della cultura in Italia, se quanto si legge, quanto non si legge, anche proprio degli specialisti di settori, un amministratore delegato di una casa editrice che ci racconta quanto si legge in Italia. Ma non ci interessava sapere se la gente legge o no, ci interessava parlare con le persone e capire che cos'è per loro la cultura delle loro esistenze, della loro vita, e abbiamo trovato molte, molte, molte sorprese in questo viaggio. Non solo persone di cultura, dicevamo, gli intervistatori Edoardo Nesi ed Eugenio Lio hanno parlato con tutti quelli che incontravano nelle tappe del loro giro d'Italia. 150 ore di immagini che sono diventate 86 minuti di film. A parte le interviste integrali degli intellettuali, che sono dei libri, potrebbero essere tante piccole monografie, e si arriva appunto cercando di farsi anche un po' del male, perché poi c'è anche una componente emotiva negli incontri e nel riprendere le persone, per cui si vede la cultura come esperienza di vita, tant'è vero che a Napoli intervistiamo un ex carcerato che poi è diventato produttore, che diceva che l'ha salvato la cultura nel carcere, perché un carcerato gli faceva leggere delle cose. E poi si arriva proprio in Sicilia, dove poi incontriamo questi paesaggi bianchissimi, le saline, e tutta un'altra cultura e un'altra luce, come diciamo, c'è la cultura della luce. Infatti Guccione ci spiega che si può leggere non solo un libro, e gli dice che è molto più difficile leggere un paesaggio che un libro. Insomma, tutto si stravolge, si parla della cultura della luce, c'è la persona che studia la Bibbia e che ci spiega l'etimologia di certe parole, e insomma diventa un viaggio nella cultura che è tante cose, il paesaggio e la luce e il cibo e tutto quello che viene fuori, è il lavoro della terra. C'è un'agricoltrice che dice che la sua vita è il lavoro e coltivare questa terra, e che poi vende tutto, no? Quindi la cultura per lei è la cultura anche del commercio, no? Però attraverso i prodotti che la terra ti dà, insomma, e che costano tanta fatica, perché la sua vita è quella fatica lì. Ma come è cambiata la percezione della cultura italiana di Elisabetta, direttore editoriale Bompiani? Per me è stata un'esperienza bellissima, e io lavoro in una casa editrice, ma insomma in questo viaggio, non dovrei dirlo, ma ho scoperto forse più cose di quante ne scopra in certe riunioni in cui si dibatte molto su come lanciare un libro. Ma è il mio lavoro e lo devo fare, ma insomma è stato un viaggio bellissimo. Italia in controluce. Tra maggio e settembre si svolgono in Italia la maggior parte dei festival culturali. Uno dei più noti in questo periodo è il Festival della Mente di Sarzana, provincia di La Spezia, da oggi fino a domenica. Alessandra Tedesco. Non è un festival letterario, eppure ci sono gli scrittori. Non è un festival della filosofia, eppure ci sono i filosofi. Non è un seminario scientifico, eppure ci sono gli scienziati. Non è un mega concerto, eppure ci sono i musicisti. E allora che cos'è il Festival della Mente? Ce lo spiega l'organizzatrice Giulia Cogoli. Si tratta di un festival di approfondimento culturale, quindi 3 giorni con una settantina di relatori, scrittori, scienziati, filosofi, creativi in generale, perché il festival è dedicato alla creatività e processi creativi. Ai relatori viene chiesto non tanto di parlare del loro lavoro, ma cosa c'è dietro, qual è il loro modo di creare, che cos'è per loro la creatività, cosa sono i processi creativi, o se vogliono scegliere una case history o come dire un taglio particolare delle loro ricerche, del loro lavoro. E così il Festival della Mente è una manifestazione originale che punta ad indagare come, quando e perché nasce un processo creativo, in qualsiasi campo. Ed ecco dunque che gli scrittori non parlano necessariamente dell'ultimo libro che hanno pubblicato, ma raccontano come sono arrivati a scrivere un romanzo. Ecco alcuni esempi. Abbiamo John Banville, lo grandissimo scrittore irlandese, che farà una lezione dal titolo The Angel of Beauty, non l'abbiamo neanche tradotto, l'angelo della bellezza, appunto, rapporto fra creatività letteraria aria e bellezza, o Xavier Cercas, lo straordinario scrittore spagnolo, di cui proprio in questi giorni sta uscendo un nuovo importante libro, e partendo però da quello lui analizzerà il rapporto fra letteratura e realtà, appunto qual è il rapporto per uno scrittore, come impatta, come dire, la realtà sulla sua scrittura, oppure ancora Enrique Villamatas, un altro importantissimo, straordinario scrittore sempre di lingua spagnola. Parlerà del rapporto fra letteratura e nuove tecnologie e di come quello stia cambiando l'editoria. Oltre agli scrittori, dicevamo, filosofi come Salvatore Natoli, che disquisirà sull'agire responsabile, musicisti come gli Avion Travel, il direttore d'orchestra Antonio Ballista con un concerto sul tema del divertimento in musica. Ma c'è anche spazio per la scienza. Ognuna delle 3 serate sarà conclusa dal genetista Edoardo Boncinelli, come ci spiega ancora Giulia Cogoli. Ci parlerà della mente, quindi sono 3 serate in cui si parlerà della mente bambina, la mente matura e la mente in tarda età, con un invecchiamento opzionale, come lui ha messo nel titolo, perché le nuove ricerche, i nuovi studi, le nuove medicina ci dice che, come dire, la mente può forse non invecchiare o invecchiare più lentamente. E spazio anche per bambini e ragazzi, con laboratori, incontri e spettacoli ad hoc per stimolare la loro creatività. Il Festival della Mente è passato dai 12.000 visitatori della prima edizione ai 40.000 dell'ultima. Che tipo di pubblico è? Ancora Giulia Cogoli. È un pubblico che ama fare un weekend culturale, approfittando anche delle bellezze della zona, perché Sarzana è una città molto bella, vicino c'è la Lunigiana, c'è il mare, quindi, come dire, un pubblico che fa un weekend appositamente in questa zona. Un pubblico spesso in gruppo familiare, come sempre nelle cose culturali le donne sono in numero maggiore. L'età media è fra i 25 e i 55, però abbiamo anche persone over 60, diciamo, per cui è abbastanza eterogeneo in questo senso. Ed è tra l'altro un pubblico affezionato, circa il 63% ha già preso parte ad una precedente edizione. Infine una nota sul ritorno economico, che visti anche i tempi non guasta. In base ad una ricerca realizzata dall'Università Bocconi di Milano un paio di anni fa, le ricadute sul territorio, e cioè hotel, ristoranti, negozi e così via, sono pari a 8 volte l'investimento fatto. Italia in controluce. Infine parliamo di vecchi mestieri, qualcuno oramai li definisce obsoleti. Ma sarà così? Cristina Carpinelli. A settembre si chiamava lo spazzacamino e fino a dicembre potevi vedere uomini pieni di fuligine a girarsi per le strade con scope, raspe, spazzole e funi. Al loro fianco c'erano sempre dei bambini di 6-7 anni. Erano i figli dei contadini più poveri, che venivano dati per 5-6 mesi quasi in affitto allo spazzacamino che si riportava in giro per le valli. I piccoli, col loro corpo esile, riuscivano a calarsi lungo la canna fumaria e pulire bene. un lavoro duro di grande fatica che chi ha vissuto ricorda con nitidezza. Livio Milani è presidente dell'associazione Spazzacamini. Dobbiamo girare tutto il giorno a piedi, dormire nelle cascine, mangiare si mangiava quando c'era. E i soldi niente, insomma, le famiglie davano a questi ragazzini per non averli a carico durante l'inverno, cioè una valle di povertà, cioè preferivano darli via 5-6 mesi piuttosto che averli da sfornare loro in famiglia, però venivano trattati veramente male, insomma, anche perché insomma un bambino in un camino all'interno che ha 5-6 anni, 7 anni, cioè non è il massimo, anche perché io so cosa vuol dire salire in un camino e rasparlo, cioè tutto come farlo con la raspa, perché vecchi camini grossi capitano raramente, ma qualcuno mi capita ancora di salire e non è tanto bello. Posso pensare a un bambino di 5-6 anni con tutte le paure che può avere, essere dentro in quattro mura, essere lì a raspare, dove oltretutto c'è sotto il padrone che ti dice che devi arrivare fino al tetto, perché se no ti maltratta, prendi magari anche bastonate o sberle qual erano al momento, e se non salivi capitava anche che a volte ti accendevano il fuoco sotto, insomma. Sono lontane le note di Mary Poppins in questa storia, fatta anche di miseria ma soprattutto di dignità e orgoglio per un lavoro che oggi sembra lentamente scomparire. Per questo forse ogni anno, la prima settimana di settembre, in una valle del Piemonte, la Val Vigezzo, si tiene la sfilata degli spazzacamino. Arrivano da ogni parte del mondo, dalla Danimarca alla Lituania, dagli Stati Uniti al Giappone. Ci sono anche gli italiani, ovviamente. In tutto sono quasi 1000. La Val Vigezzo è la patria degli spazzacamini, perché è da questi paesi che partirono centinaia di bambini e uomini in cerca di lavoro. È lì che si può andare a vedere il museo dello spazzacamino, è lì che ha sede una delle associazioni più importanti di categoria, una categoria che ancora oggi rende un servizio utile e che in pochi vogliono fare. Tullio, 36 anni, 3 anni fa ha deciso che quello era il suo mestiere. Perché non ce n'erano nella mia zona, lì in provincia di Vicenza ci sono, però nella mia zona pochi, nessuno si interessa della canna fumaria, geometri, architetti, muratori e tutti quanti se ne fregano della canna fumaria. La necessità di pulirle, c'è la necessità di pulirle perché ho un bel giro da fare, diciamo, adesso. Più o meno, se le posso fare questa domanda, quanto guadagna per pulire un camino? 150 euro per la pulizia di un camino. Non è che lavori tutto l'anno. A settembre ed è adesso è il colpo grosso, poi da gennaio fino a settembre, a gennaio diciamo fino alla fine dell'inverno non fai poco niente. Cosa spaventa veramente uno spazzacamino? Salire sul tetto, non puoi sbagliare. Chiedo a Tullio se sua figlia di 2 anni è affascinata dal lavoro del padre. La mia bambina ha 2 anni e mezzo, ma vai a lavarti che sei tutto sporco. Le dice. Quando arrivo a casa, sì. Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. E Mary Poppins? Quanto conta Mary Poppins in tutta questa storia? Ai bambini, quando mi vedono, che sono tutti curiosi, faccio vedere una spazzola e nomino anch'io Mary Poppins. Se la mano vi do. Cammini, cammini, spazzacamin. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui, l'archivio di tutte le puntate radio24.it, il nostro gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì alle 6:30.